influenza, io ho fregato, guardi. Io non ti apro, eh? Ma te non lo sai se ce l'ho o non ce l'ho. Ah sì, prendo di ditti. Quanto sei monello, Cappa, cappa. Ehi, se vede a contagiarmi, a base come un usuro. Ci posso mandare qualcuno a prendermi le medicine. Ioi, Sant'Antonio. Comunque gli ha mandato un mezzo messaggio all'avvocato, non mi ha ancora scritto, dopo se lui non vuole leggere i messaggi vocali dopo glielo scrivo. E gli ho detto chiaro e tondo, lei mio avvocato, lei mi deve informare, cosa so, queste 425 euro. E lui che mi ha detto, cosa mi ha detto? Ce l'ho scritto qua. Lasci fare a me, quando novità la chiamo. No, non ha più preso. Perché vorrei se le ha mandato il mio codice, ma se ha mandato all'assicurazione, cosa sono questi 400 rotiere, se sono i soldi che ho anticipato io per le ambulanze, il tutore del piede, ci sono fatto questa roba qua, e la scarpa col tacco alto, e il coso per la mano, insomma. Magari è totale che stai da due cuscini e tu pensi che sia solo un malamotto. Oh, yeah. E beh, doveva informarsi da prima di accettare, doveva informarsi che cosa era. No, aspetta Gianni, è un avvocato, non è una ragazzina, più a base. E se ha fatto questo perché... Allora, mi ha già detto chiaretto di partenza, non può essere i soldi per lì, perché innanzitutto questa busta, cioè la PEC gli è arrivata il giorno 17-18, mi ricordo bene. Lei l'ha vista con medico di collegare, l'ha fatto il 23, molto dopo. Come fanno loro a stabilire a dare un importo minore? Ma stiamo scherzando? L'hanno previsto. No, devo aspettare sempre l'esito, il punteggio che ti dà il medico legale. Io ne so queste cose perché l'ho letto su internet. Poi mi ha detto anche dietro, lo so, avvocato, mi ha detto, ah, lo sai già, sì, mi sono aggiornato. E allora gli arriveranno gli altri. Sì, ma devi informarsi queste 400, lei ci ha preso per la moto. No, perché a me il perito era della situazione mia che abbiamo periziato la moto. Ed era 1040 euro il danno. Ecco. Quindi non penso che l'abbia data l'assicurazione controparte che mi deve pagare, assolutamente. E quindi non ci rientriamo. Da 1040 euro a 425 euro. Semmai potrebbe essere più le spese che ho avuto io, che ho anticipato. Sì, tu dici un avvocato, non una signorina, però lì non doveva accettare senza sapere che cosa era. Scusa, tu accetti una cosa o un pagamento senza sapere perché cosa è. E secondo me ha sbagliato lì, ma l'avete già accettato. Lei mi ha fatto firmare questo foglio e mi ha scritto come acconto. Ho detto no avvocato, allora gli spiego, si faccia dire se sono per la moto che mi stanno dando questo o per altra cosa, non per quello che ho avuto io in 5 mesi praticamente, perché se è per la moto o per l'attrezzatura che ho speso io, allora accetti, perché se per la moto accetti lo stesso, se non le perdiamo, perché se mi chiedono una contropelizia alla moto e non ce l'ho più, l'ho venduta, quindi mi attacca un dramma. Le ho fatto questo cosa qui, capito? Poi vediamo, adesso gli ho mandato un messaggio vocale, a quanto pare lì i messaggi vocali non li piace ascoltarli, dopo gli mando un messaggio normale. Tu fotografia la moto, gliel'hai fatta? Io ho tutte le fotografie anche della polizia stradale, tutto. E allora se c'è la moto fotografata va bene quello lì, va bene quello come anche l'assicurazione va bene. Vabbè poi, non lo so se le cose sono cambiate, però prima andava bene. No. Quello mi serve perché ti fa vedere solo la moto e basta, non ti fa vedere il danno che c'è la moto. Mentre devo andare dall'assicurazione ex via assicurazione, da dottor Marungiu, e lui è proprio il perito e mi faccio dare le fotografie che ha fatto lui, che praticamente il danno che c'ha la moto mia, che c'aveva foto per foto, e ha stabilito che era 1040 euro il danno, capito? Quelle mi interessano le foto a me. Lui ha detto 1040 e loro ti stanno dando 400 euro, 500 euro. No, aspetta, il perito ha detto 1040 euro, però il perito della mia assicurazione, la controparte, l'altra assicurazione, io non so cosa sono queste 425 euro, non lo so, e neanche l'avvocato me l'ha detto, si informi, che cosa sono, e poi gli manda la firma mia con l'IBA. Poi io l'IBA gliel'ho già dato l'anno scorso, ho preso un po', devo pagare quei miei 40 euro, non l'ho mai pagato, ecco perché mi sono saltato via con l'assicurazione, ho venduto la moto sotto assicurazione, io tocca tutto, non ci sono più con voi, e mi hanno dato il Ballucci. Quindi le cose sono due, o è per la moto che hanno abbassato il prezzo loro, oppure sarà per la roba che ho comprato io, perché ho comprato tutto, ho comprato da 5 euro, ogni volta che chiamo l'ambulanza sono 40 euro, la giornata mi divulgivi già. Perché chiamate le ambulanze sbagliate, se lo dicevi a me chiamavi a misericordia ed era offerta. Gianni, ma te lo devo di nuovo dire, guarda che tutte le ricevute che ho io sono della misericordia, mi 40 euro. A me mi hanno preso l'offerta, allora si è cambiato la storia, perché io per andare all'ospedale gli avevo dato 25 euro, non gli ho dato 40 euro, ho dato 25, un'offerta, avete un'offerta, sì, ho dato 25, va bene, sì sì. Io non dico l'offerta, però 40 euro, mi hanno fatto la ricevuta, ce l'ho tutte le ricevute io. Sicuro che la misericordia. Allora, ho chiamato la misericordia e l'altra una sola ho cambiato, è sempre 40 euro. Boh, vabbè. Non insisto, magari hanno cambiato metodologia perché hanno visto che non conveniva con l'offerta. E beh, chi si avrà dato 5 euro, 2 euro, senza uno che non avvia, e quindi automaticamente. A me mi hanno fatto un bel lavoro, la verità. E quando non ero a casa mia, cioè del primo piano, aveva la sedia motorizzata, c'aveva così caramato, c'aveva i fianchi. Ah, se l'ho preso la sedia motorizzata. E vabbè, quella sedia a cardiopatici deve essere col motore. Quella scende le scale, uno giù, uno su, piano piano, du, e ti scende giù, capito? I gradini manco li senti. Bella però. Ne hanno due di quelli di loro, capito? Noi tutti abbracci, uia, già ne abbiamo sceso poco, con la sedia a cardiopatici, oppure con la barella a cucchiaio, poi... È la misericordia che c'ha la tuta celeste, giusto? Con quella sema giallo, rosa, mezzo. Sì, sì, è celeste. Sì. 40 euro, ogni voce la dicevamo. Poi ho fatto la fotocopia e ho dato l'avvocato. Andrà bene, Natalie, comunque mi fa piacere che sta un po' meglio, dai. E adesso mi preparo qualcosa da mangiare e metti in gocca che sono uno straccio. Roba calda, infatti, Natalie, una minestrina di dadi, roba così che ti scalda. Vediamo se Luca è passato un po' di mal di testa. Luca. Sì, già sta passando, dai, già di meno. Una mangiata tu? No, con formaggino sì. Al latte, quando ero malato? No, l'ho fatta, mai fatta, non ho a me, neanche l'ho fatta io. Comunque hai parlato insieme, chi era? Natalina. Natalina, tu hai parlato, o Luca, chi era? Io ho parlato, guarda, già mi sta passando piano piano. Meno male, perché già ne è dito veloce, mi. E io che hanno girati. C'è troppo voce, mi già. Ma cosa veloce? Schizzi veloce e pulsante. Ma io lascio sempre il bianco prima di parlare. Ho rilanciato Luca, hai preso tu. Ma Luca non c'era, sino adesso. È entrato lui di colpo. Vabbè, non c'è problema. Lo c'era. C'è tanto che era socio per mal di testa. Infatti speriamo che gli è passato, ma cioè, chi è che mi ha mandato il messaggino? Me, l'avvocato. Magari, mi avvocato niente. No, non è proprio lui, è cioè lì. Ma dov'è quello lì? Via Pirandello, eh? Yes, una vecchia bisurita che mi ha dato già la buonanotte. In chiesa, così in chiesa. Allora, dini proprio. Fai prima andarci a piedi che a telefonare. Ci vai, glielo dici. No. Adesso già le 7, quindi. Forse è in uno studio, non lo so. Poi dice perché lei sta sempre telefonando, sempre messaggi. Scusa, poi delle banni miei. Insomma, ti arriva una comunicazione di soldi, infatti le ho scritto, cioè letto boccale in un messaggio. Ma non penso che l'assicurazione mi regala i soldi così. Un motivo ci sarà scritto, no? O no? Ma loro dovevano mettere anche la causale di questi soldi. Fate una lettera, mandate la causale per cui se ne stavano mandando. Loro stanno dando questi 425 euro. Cosa sono? Gli ho detto chiami avvocato, mi faccio sapere, sì. Io ho aggiunto sbagliato là. E che vabbè, stavo male, ero ospedale quando ho chiamato lì, se no mettevo con l'ufficio sinistri. Che c'è Via l'Italia, sono molto bravi. Via l'Italia? alla fine sulla destra, al primo piano. E io andavo vicino a Roberto Quadrato, lì in un ufficio sinistro, mi ha fatto ottenere in poco tempo i soldi. No, questa non mi voleva pagare addirittura. Questo si è associato al fisioterapista, non c'entra con la macchina dell'azienda, sta guidando, amico mio, stava guidando, questo non c'è per un'altra poverina, stava andando a lavorare. E c'era proprio il poco, pochissimo, quasi niente traffico, che eravamo tutti incasinati, però non si poteva uscire, so, per lavorare, eccetera. E poi stavo andando alle scale, poverina, non so, non l'ho visto, si abbia in pieno, e sbattuto il ginocchio, fuori il collo, e quindi da lì si debogono il gondo. E la macchina non è neanche sua, è la sua principale. E gli ha pagato tutta l'assicurazione. La macchina no, ma l'assicurazione ha pagato il resto, a voi vi ha pagato l'assicurazione. Lo so. Dai, Natalino sta preparando qualcosa da mangiare, speriamo qualcosa di caldo. Fatti fare qualcosa di caldo a Natalino, la concetta. Già è cuoco anche lui, già ce lo fa anche lui. Ma sei ancora tutto mezzo sciancato per quello che è passato. Troia, cinque amici, sì. Più del cuoco e può cuovere. Anche Magicini, Manuele, ci sì, vedi, lo chiama e non risponde. Comunque io c'ho tutto, la farina, ce l'ho tre pacchi di farina, 00, stiamo controllando, la vanillina mi manca, tutto il resto ce l'ho. E io c'ho tutto, la farina 00, la vanillina, le uova ce l'hai. E a voglia, ne avrò, uova mi pare che ne ho 20. Lo spartitore elettrico, c'è tutto. Anche quello c'ho. Ne ho due o tre tipi di sbattitori. Vedi, allora che tu. A me mi pare che questi giorni ti hai fatto la crema tua, ce ne gioca, C'è anche quello con le fruste, con due fruste. E io ho quelle due frucce, non so dove cavolo l'ho messo, boh. Con questi due traslochi mi sono incasinato, non so più dov'è. No, io già ce l'ho, c'ho quello con due fruste. E avevamo fatto il tiramisù, e non avevamo fatto il tiramisù, boh, gravavo. A proposito, sì, forse ho capito dove è quello due fruste. Io stavo usando quello che centrifuga tutto, vabbè, comunque. Hai visto proprio quella ragazza, poveraccia, col tiramisù che è morta? Ho visto, era allergica al latte, ma non lo sapeva. Anzi, lei aveva detto che era, come si chiama, lei mangiava vegetariano, mi fa roba del genere. E dice che nell'etichetta c'era scritto, però non era così, mi ha fatto male lo stesso. Non doveva contenere cose lattosio, praticamente era un'etichetta bugiarda perché c'era qualche derivato del latte e lei era allergica, non lo sapeva, poverina. 10 giorni come poi se n'è andata, poverina, che no. Fatta la polizia, i nasi che erano, le ha sequestrato 100 in quegli affari di tiramisù, che erano tutti derivati così, li avrei denunciati, ma fumetti sì, adesso paghi i danni. Era giovane, un bel cava. Sì, era vegana, mangiava vegano, capito? E praticamente aveva letto che era vegano questo tiramisù, quindi lì era tranquilla e poteva mangiarlo. E invece conteneva derivate del latte, capito? Per un motivo o per l'altro, io mi ricordo sempre con lo shock anafilattico, no? Eravamo al mare e praticamente questa signora stava leggendo il giornale, a un certo punto ho visto la figlia che era a fianco, avrà avuto 25-26 anni. Adesso si è fatta viola, poi bianca, ho detto signora sua figlia si sta sentendo male, e cazzo l'aveva punta un'ape la punta e è entrata in shock anafilattico, cazzo toglieva tutta la bava da bocca e abbiamo chiamato l'ambulanza e se l'ha portata via. Purtroppo è così, Quando si allergico con queste cose qui, ma io non sono allergico, grazie a Dio, perché un'ape mi ha appunto mi ha lasciato il pugiglione, la banza. Poi, le vespe, pacare dai, la vespe di raziata, ti mugli sempre, invece l'ape ti lascia il pugiglione, capito? Vabbè, perché il pugiglione è fatto in un modo tipo seghetto, che se entra non esce, e quindi ecco perché lascia il pugiglione e poi muore anche lì, mentre la vespa no. E comunque fa un bel male. male, cazzo. Quando sei al mare, per dire, stai mangiando la frutta, ti si buttano tutti addosso, oppure quando vai a pescare con i cannolicchi. Ti andano tutti i cantinati, io per quello che odio i cannolicchi, perché attira le vespe. E praticamente una volta stavo mettendo il cannolicchio, ma con la montura sembrava il bruciore di un accendino. Potente, falsi mare. Sì, ma a me il cannolicchio non mi è mai piaciuto a piccare, e a tutti fanno schifo. Quindi, c'è una cosa moda strana, viscidosa, no. Li chiamavano prima i cannolicchi le tabacchiere, non so se te lo ricordi già. Le? Tabacchiere. No, non me lo ricordavo. Non l'ho mai saputo forse. Io il cannolicchio lo sai come lo lavoro, lo infilo nel lago, lo metto dentro l'amo e poi lo leggo col filo elastico. Oppure lo metto intero, allargo il cannolicchio, quando è vivo li metto l'amo dentro e poi lo leggo col filo elastico. Così va bene nelle zone dove ci sono i cannolicchi tipo Pratamona, Settimo Pettine, roba così. Praticamente con la buccia stesso? Sì, con la buccia, li metti l'amo, li allarghi appena appena senza romperlo, li allarghi appena appena la corazza che c'ha, rientri l'amo e poi tiri e fai uscire la lenza dall'altra parte. E poi lo lanci, lo leghi col filo elastico e lo lanci, e l'orata se lo sgretola, lo sai come fa, l'orata se lo mangia tutto, si mangia un cannolicchio e se lo rattimano. Tu il cannolicchio l'hai mai assaggiato? No, dice che si mangia, io non sapevo manco che si mangiasse sinceramente. La pasta e cannolicchi dice che è un bel buono. Comunque, a me me l'hanno detto, io non l'ho mai mangiato perché faceva schifo, questa cosa. A saporna, chiamano il tabacchiere, perché ha saporna di tabacco. No, io non l'ho mai mangiato, però mi hanno detto che si fa la pasta ed è molto buona. Bisogna lasciarli a muglio nell'acqua salata per una notte, di modo che ritolgano tutta la sabbia che c'hanno dentro, come si fa con le arselle, eccetera, eccetera. Li fai togliere la sabbia e poi li apri e li fai con la pasta. Aglio, prezzemolo, li metti peperoncino, li metti a soffriggere e poi li metti in mezzo alla pasta e dice che è buono. A me non mi è piaciuto, se lo so lo mangiavano prima. Come per esempio che costa un bel, le uova del Mugero. Non mi ricordo come il nome, come si chiama, comunque è cucchia a me mi fa schifo. L'aveva fatta una volta Giampaolo Vandracche in casa sua e tirò, gli ho assaggiato una forchettata, no, non mi piace, basta, me la lasciavi con filo di olio, forse era meglio. A me non piace la bottare, che stai dicendo? No, nemmeno a me piace. Non devi mangiare secca, la bottarica va grattugiata sopra la pasta, però a me non mi è mai piaciuta, manca a me, non mi piace, ed è una cosa pregiata perché è una cosa che costa anche, capito? Però a me non piace. A me mi piace la pasta alle cozze, ma se mi piace la pasta alle cozze mi piace di più di chi si grazza, di chi si muore in bottarica, chi si cosiusce. Beh, ti credo. Sì, lui l'aveva grattugiata, se l'aveva secca, cioè il grattugino piccolino, l'ha messo in spaghetti, no, non si assaggiava questa cosa. Sì, costa un bel, io vi so che 80 euro, 90 euro, pezzo grande, cioè, ma stiamo scherzando, devi recuperare una cosa del genere, ma forse il tartufo, via. Io ho mangiato anche il tartufo. Non lo so, io non l'ho mai assaggiato, no, ma dicono che è buona, ma non lo so, avere roba così già, no, non mi attira. Io l'ho mangiato a Terni, avevamo conosciuto una coppia quando siamo andati in viaggio di nozze, ci siamo conosciuti con questa coppia, stavamo facendo le foto e cose, poi abbiamo viaggiato in treno insieme, abbiamo fatto confidenza, loro venivano qua, noi andavamo là, e un giorno siamo andati a trovarli, quando siamo andati a Roma, siamo passati lì a Terni e ci hanno invitato a pranzo e praticamente ci avevano sia i tartufi che i funghi, come si chiamano, i funghi buoni, vabbè non mi viene il nome di questi funghi, vabbè comunque hanno fatto il riso con questi funghi che si sentiva il profumo da fuori e poi hanno fatto i tartufi tuffi, non so con che cosa era, non se lo mi ricordo, però li ho mangiati ed erano veramente buoni, l'hanno fatti loro, però c'era anche il cane da tartufo, vanno proprio per tartufi. E praticamente con i porcini, cazzo, non mi veniva il nome, con i funghi porcini l'ha fatto il riso, e i tartufi, lo stesso, li ho mangiati, i tartufi buoni veramente, ne aveva trovato 4 o 5, ma belli grossi. E comunque non è difficile dimenticare i porcini, basta pensare a Manuele. Manuele! Io non so che l'ascolto. Perché stava prendendo il frigorifero, dove ce l'aveva mangiato. Sì, non sappiamo niente, ne ha frega, sai che pesa 110 kg, ma... Ah, non pesa. Così avete detto di me, non sai quanto peso, eh? Non sai quanto peso io? Oggi va meno di me. Meno di te, sicuramente. Vai, io ho solo la pazzita e bummi. Adesso sono tutto magro. E anche quello c'è un grasso. Io ho appena appena di pancia, ma poca, non molta. Ma sei anche alto. Le ossa più lunghe, il peso di più. Comunque non arrivo a 100 io. 102, 105. Basta scommettere, non arrivo a 100. Guarda, sono le tue dita, sono già 50 kg. 90, 95 qualche cosa arrivo. Non mi sono pesato il giorno che ho fatto la visita di abiti che mi hanno pesato. Io 91. Ma io sono anche più alto. C'è la statura grossa. Io ho la statura grossa, però c'ho la pancia grossa. Tu c'hai la tortuga. No, quelle sono gli addominali. Pregare. Avanti. Sogna. Sì. Ma non possiamo vedere, la andiamo a Turi, a Italia 1. A vero. Via. Mimmi, non c'è la Manuela. Ah. È un morito. Guarda che mi sposto, dove bagno. Ehi, a cusci brudusi. No, la fate più e buon. Ciao bombolo! Ciao! E allora? Che si dice, che si dice? Fisioterapia, dove te la stanno facendo? Anche all'ospedale civile. Yeah. Quello lì è per ripristinare il movimento. Fisioterapia. E almeno tu la stai facendo, invece a me non me ne hanno fatta che vera un gufi e me la sono dovuta fare io. Ce l'ho molto più basso. 12. In linea da quant'è? Allora, niente, quello lì è peso al cane morto, ho detto a G stesso. Io ce l'ho uno buono a 32, ma non lo posso dare perché sto alimentando l'altro che ho io della CTN. L'altro detta G è pesante, però grande, però sono 12, capito? Scusate che mi apro il mio pinguino, Gianni, il gelatino, sta mangiando. Fai. Dico di raggi, oui. Che cosa? E io ne ho dato uno a Torino, ma poi ce l'ha rivenduto. Quello era bello davvero. No, io non l'ho venduto, ho fatto scambio. 25. Aveva due strumenti, era bello della Intec, ma bello veramente. Io posso fare scambio e buco. La 10 ampere va bene per un apparecchio che c'è 5 watt. Si lo tratto con un govra per dire che lui si mose. Che come assorbe? Assorbe un bel po' di ampere. Ma gli amperi rimangono sempre qui, lì, non è che aumenta. Può essere buono quanto voi, ma se c'è quegli amperi, c'è quegli amperi. E vabbè, comunque, io guarda, sto usando un alimentatore da 50 ampere e va benissimo. Luca lo conosce, e me l'aveva venduto Fabrizio che li aveva presi per i ripetitori e mi ha detto se ne volevo e di chiedere chi li voleva. L'ho pagato una cartata a 20 euro mi pare, non so quanto va bene. Questo è silenziosissimo, non ne fa rumore. Sì. Comunque adesso vabbè, l'innovazione è quella, gli switching costano meno e rendono. Io ne avevo visto uno da Melchioni che era 10 ampere ma era enorme, un alimentatore in gatta, fare un barrasoni e costava 300 e passa euro da 10 ampere, capito? C'aveva un grande, come si chiama, trasformatore all'interno. meno, perché era enorme, ma grande lì, ti sto dicendo che per chi avevano convenito. Non lo so che Mark, no, era Melchioni, Melchioni Elettronica. Ma non c'è più Melchioni. Non c'è più. E dov'è? Non c'è più, prima era Vaderrato, Melchioni era esattamente via San Francesco, poi si è trasferito a Prendanita e poi è sparito. A Prendanita era dietro il capannone di Cesaraccio, quella zona lì. Cappa. No, non lo so io, vabbè che sembrava di entrare in un tunnel, quando entravo in quel negozio era tutto al buio, mamma mia. Manca però quel negozio. Ma quale? Quella Prendanita? No, luce bassa erano, però già si vedeva, dai. Poi era tutto buio, tutto buio, non mi piaceva. Sembrava un punto scuro proprio. Io sono andato poche volte e ho comprato un paio di microfoni amplificati che ce li avevano, erano anche buoni quelli che ci aveva. Niente, io sono con decisi di a due alimentatori. Poi c'è quello che mi aveva dato Emanuele, che ce l'ha Franco uguale uguale, 32 ampere, che c'ha la ventola, c'ha il CD sigari, ed è buonissimo la verità. E poi c'è un altro che è un ZG ma enorme, pesante, che con lo strumento, tutto quanto regolabile. Io ne ho uno da 50 ampere che ha tutti gli strumenti, un altro da 50 ampere che è quello non decinesi ma l'ha comprato fuori, però è tipo quello che si mette nei computer, e questo si usa per i cosi, per i... per computer, per queste cose qua. E poi ne ho uno da 35 ampere sempre con gli strumenti, che è quello che sto usando in questo momento. No, io c'ho quello che non sto usando, c'ho quello decidissi, è molto più grande di quello che sto usando, ne sto usando uno, due ne sto usando, anzi tre alimentatori con esattezza. E l'altro invece quello che non sto usando 25 ampere con la ventola. E io ne avevo molti di più di alimentatori, poi uno l'ho dato a te e un altro non so a chi l'ho venduto, ne avevo un 4-5. Io comunque quello dei cinesi ce l'ho da un meme già, ci avrò un po' di buone, 2-3 anni. Sì, durano, sono e io ho questo qui, te l'ho detto, questo è quello che mettono nei ripetitori, quello da 50 ampere che usavano perché ogni tanto li cambiano, i radiamaturi, capito? Li cambiano nei ripetitori e anche se vanno li cambiano lo stesso dopo un po' di anni. E poi c'è la vettina a fianco, lo devi regolare, a 13 volts, quindi se uno l'ha regolato, l'ha bloccato, boh, basta così, adesso l'altro invece no, quello è ancora nuovo, boh, lo devo mettere in testa e regolarlo, ma già me ne posso, non devo usarlo, quindi mi basta quello che c'ho, alimento tutto. Io gli ho messo l'interruttore che si accende, quando io accendo l'interruttore si accende, capito? Li metto una lampadina dove sono gli attacchi, giustamente. No, interruttore non ce n'è quando tu lo prendi, l'ho tagliato due alette di quelle del raffreddamento e ci ho infilato, le ho fatto a forma dell'interruttore e ci ho infilato l'interruttore. Ah, si può mettere diversamente l'interruttore lo stesso, tanto interrompi la fase e basta, capito? Fai l'interruttore che vuoi. E poi puoi inserire anche una lampadina 12 volts automaticamente piccolina, uno degli attacchi per mettere quello che devi attaccare. E quando c'è anche la lampadina, giustamente. No, qua l'interruttore gli ho messo quello rosso normale, dai. E comunque sono buoni questi che usano i radioamatori, sono buoni. Ne avevo comprato uno a me e uno l'avevo comprato per come si chiama? Orso Bruno, boh. Ma sono quelli grandi di marca o di quelli tipo cinesi? Ah, tipo cinesi, sono quelli che hanno praticamente sia l'attacco dietro che tanti attacchi davanti. Non va bene. Che cosa Google trasformatore c'è dentro? Perché più ampere c'ha e più è grosso. Ah, questi trasformatori non ne hanno, c'hanno una scheda e basta. Sono di quelli con le schede, so. Ah, non è trasformatore, faccio io sì, è pesante burumbe. Tipo quello che tu avevi a Memmi. Un po' di meno ma pesa, cavolo. Quello lì non lo dovevi dare, era tutto ripristinato. Oh, abbiamo fatto scambio, dai. Vabbè. Io non lo volevo dare quello, ce l'avevo nel mobile, non lo volevo dare, pure tu già di volte, tanto ne ho trecca. È pesante, perché era solo perché era pesante, perché sennò non avrei mai dato. È bello come è, poi l'ho rifatto tutto a nuovo. Le luci le ha tolte comunque. E poi può fare quello che vuole lui, però io le ho messe. Sì, perché dice che si accecava troppo mosciere. E gli avrà messo la padina normale. Nulla, per il momento no. Ma carizzai. Ah, ed è meglio adesso. Vabbè. Dai, 10 minuti e poi ci scaldiamo un po' questa pace, cicci, ma pace cicci, questa è cicciata, con la verza che è bella sciolta, che buona. Io adesso vado a portarci a casa, mi si sta lamentando. Dai, saluto tutti gli amici, Luca, tutti quelli che sono in ascolto, faccio corretti, dai, ci sentiamo domani. Non ho più sentito Gabbino, se è all'ascolto saluto anche a lui, dai, ci sentiamo, ciao. Ok, già, anch'io chiudo, dai. Ci sentiamo, ciao Luca, ciao Antonio, ciao Natalino e ciao Gianni. Ci allora riscattiamo. Oggi, ciao, cuore tagliato per mia. Ciao. Non c'è più nessuno. C'è qui canale 10, c'è qualcuno? C'è qui 10. Chiara, fratello. Attenzione, proprio California, vita mia, fratello di Abelli. Nord.